sensazioni. Troviamo il modo di continuare avanti senza cadere indietro. Possiamo cadere nella nostra strada, ma siamo alzati ancora una volta. Troviamo il modo di sentire il dolore, la tristezza, la rabbia, la gioia, di sentire il sentire, di sentire il silenzio. Siamo in volo, prendiamo in volo ogni cosa. Prendiamo con il senso attenti, prendiamo nella strada e al fare due passi, prendiamo al camminare. Assumiamo la forma di noi per avviso, senza alzare la voce, senza nemmeno parlare, anche parlando. Troviamo il modo di sentire il dolore, la tristezza, la rabbia, la gioia, di sentire il sentire, di sentire il silenzio. Assumiamo la forma dei nostri sogni, prendiamo la forma che proiettiamo con la nostra luce. Siamo in volo, prendiamo in volo ogni cosa, prendiamo con il senso attenti, prendiamo con quello che abbiamo camminato, prendiamo con l'anima, con il cuore, con la mente che abbiamo sviluppato. Troviamo il modo di sentire il dolore, la tristezza, la rabbia, la gioia, di sentire il sentire, di sentire il silenzio.